Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. Incontri con cammelli. 3 volte venne a contatto con i cammelli. E ogni volta finì in modo tragico. Ti devo mostrare il mercato dei cammelli, mi disse un amico dopo il mio arrivo a Marrakesh. Si tiene ogni giovedì mattina, davanti al muro di Bab al-Khemis. È abbastanza lontano, dall'altra parte delle mura cittadine, meglio che ti ci porti io in macchina. Venne il giovedì e ci andammo. Era già tardi. Quando arrivammo nella grande piazza aperta, davanti alle mura della città, era ormai mezzogiorno. La piazza era quasi deserta. All'altra estremità, un 200 metri da noi, c'era un gruppo di persone, ma non vedemmo neanche un cammello. I piccoli animali, attorno ai quali si affaccendava la gente, erano asini. E di asini comunque la città era piena. Portavano ogni sorta di carichi, ed erano trattati così male, che passava la voglia di starli a guardare. Siamo arrivati troppo tardi, disse il mio amico. Il mercato dei cammelli è finito. Guidò fino al centro della piazza per convincermi che non c'era veramente più nulla da vedere. Ma prima che si fermasse, vedemmo uno stuolo di uomini che schizzavano via, uno lontano dall'altro. In mezzo a loro c'era un cammello, dritto su 3 gambe. La quarta gli era stata legata in alto. Aveva una museruola rossa, una corda. Una corda gli era stata passata per le froge e un uomo, che si teneva a una certa distanza, cercava di trascinarlo via. L'animale corse avanti per un tratto, si arrestò e poi d'improvviso balzò in alto sulle sue 3 gambe. I suoi movimenti erano inattesi e poco rassicuranti. L'uomo che doveva portarlo via cedeva ogni volta. Aveva paura di avvicinarsi troppo all'animale e non sapeva bene quale sarebbe stata la sua prossima mossa. Ma dopo ogni sorpresa, ricominciava a tirare e riuscì molto lentamente a trascinare la bestia in una direzione precisa. Ci fermammo e abbassammo il finestrino dell'automobile. Dei piccoli mendicanti ci circondarono. Sopra le loro voci che chiedevano l'elemosina, sentivamo le grida del cammello. A un tratto l'animale balzò da un lato con una tale energia che l'uomo che lo tirava perse la corda. Gli altri, che si tenevano a una certa distanza, scapparono ancora più lontano. L'atmosfera attorno al cammello era carica di paura, ma era lui, soprattutto, ad avere paura. Il guardiano lo inseguì per un tratto e con gesto fulmineo afferrò la corda che strisciava a terra. Il cammello saltava con un movimento ondulatorio e saltando scartava, ma non riuscì più a liberarsi e fu trascinato via. Un uomo che prima non avevamo notato spuntò alle spalle dei bambini che attorniavano la nostra automobile. Li spinse da parte e ci spiegò in un francese stentato: «Il cammello ha la rabbia, è pericoloso. Lo portano al mattatoio. Bisogna stare molto attenti». Si fece serio in viso. Tra una frase e l'altra di quell'uomo si sentivano le grida della bestia. Lo ringraziammo e ci allontanammo pieni di tristezza. Nei giorni successivi parlammo spesso del cammello rabbioso. I suoi movimenti disperati ci avevano fatto un'impressione profonda. Eravamo andati al mercato nella speranza di vedere centinaia di questi tranquilli animali ricchi di curve. Invece nell'immensa piazza ne avevamo trovato uno solo su 3 gambe, incatenato, prossimo a morire. E ci eravamo allontanati mentre lui lottava per la sua vita. Alcuni giorni più tardi passammo davanti a un altro settore delle mura. Era sera. Il bagliore rosso sul muro si stava spegnendo. Finché mi fu possibile, non staccai gli occhi dal muro ed ero felice per il suo lento mutare di colore. Fu allora che scorsi nella sua ombra una grande carovana di cammelli. Quasi tutti si erano messi sulle ginocchia. Gli altri erano ancora in piedi. Uomini con il turbante in testa camminavano tra i cammelli, indaffarati eppure tranquilli. Era un'immagine di pace e di tramonto. Il colore dei cammelli si confondeva con quello del muro. Scendemmo dalla macchina e ci mescolammo anche noi agli animali. A gruppi di una dozzina circa ciascuno, stavano accovacciati in circolo attorno a una montagna di foraggio ammucchiato. Allungavano i colli in avanti, prendevano il foraggio in bocca, buttavano indietro la testa e masticavano con calma. Li osservammo attentamente, ed ecco, tutti i cammelli avevano un volto. Erano simili tra loro, eppure diversissimi. Ricordavano quelle vecchie signore inglesi che prendono il tè insieme con aria dignitosa e apparentemente annoiata. E tuttavia non riescono a nascondere del tutto la malvagità con cui osservano ogni cosa che le circonda. «Questo è mia zia, di sicuro», disse il mio amico inglese, al quale con tatto avevo fatto notare la somiglianza tra i cammelli e i suoi connazionali. E in breve trovammo parecchi altri conoscenti. Eravamo fieri di essere capitati in mezzo a quella carovana di cui nessuno ci aveva parlato, e contammo 107 cammelli. Si avvicinò a noi un ragazzino e ci chiese una moneta. Aveva il volto di colore blu scuro e così pure la veste. Faceva il mandriano e si vedeva dall'aspetto che era uno degli uomini blu, uno degli uomini che vivono a sud dell'Atlante. Il colore dei loro vestiti, ci avevano detto, si trasmette alla pelle. Per questo sono tutti blu, uomini e donne, l'unica razza blu. Cercammo di sapere qualcosa riguardo alla carovana del nostro giovane mandriano, che c'era riconoscente per la moneta ricevuta, ma egli conosceva solo poche parole di francese. Venivano da Gulimen, disse, ed erano in cammino da 25 giorni. Questo fu tutto ciò che riuscimmo a capire. Gulimen era lontana, giù, nel profondo sud, nel deserto. E noi ci domandammo se la carovana di cammelli avesse attraversato l'Atlante. Avremmo anche saputo volentieri quale sarebbe stata la loro prossima meta, perché il viaggio non poteva certo finire qui, sotto le mura della città, e sembrava che gli animali raccogliessero le forze in vista di ulteriori strapazzi. Il ragazzo blu scuro, che non sapeva dirci altro, si diede da fare per accontentarci e ci condusse da un vecchio alto e slanciato, che portava un turbante bianco e veniva trattato con rispetto. Il vecchio parlava bene il francese e rispose con disinvoltura alle nostre domande. La carovana veniva da Gulimen ed era realmente in cammino da 25 giorni. E poi, dove prosegue? Non prosegue affatto, disse lui. I cammelli saranno venduti qui come carne da macello. Carne da macello. Eravamo entrambi sbigottiti, anche il mio amico, che in patria è un cacciatore appassionato. Stavamo pensando al lungo viaggio degli animali, alla loro bellezza nel tramonto, alla loro inconsapevolezza, al loro pacifico pasto, e forse anche alle persone che ci avevano rammentato. Proprio così, carne da macello, ripeté il vecchio, e la sua voce aveva un che di roso, come un coltello logoro. Si mangia dunque tanta carne di cammello da queste parti? Domandai. Tentavo di mascherare la mia costernazione con domande concrete. Moltissimo. Ma che sapore ha? Io non ne ho mai mangiata. Non ha mai mangiato carne di cammello? Scoppiò in una risatina beffarda, un po' sottile, e ripeté: non ha mai mangiato carne di cammello. Senza dubbio, la sua opinione era che qui non ci servissero altro che carne di cammello, e aveva un tono di grande superiorità, come se fosse lui a costringerci a mangiarla. È ottima, disse. Ma quanto costa un cammello? Dipende. Da 30.000 a 70.000 franchi. Ve lo posso mostrare, bisogna intendersene. Ci condusse da un animale molto bello, chiaro, e lo toccò con il suo bastoncino di cui mi accorsi solo adesso. Questo è un buon animale. Vale 70.000 franchi. Il proprietario lo cavalcava personalmente. Avrebbe potuto usarlo ancora per molti anni, ma ha preferito venderlo. Con quel denaro può acquistare due animali giovani, capite? capivamo. «Lei è arrivato da Gulimin con la carovana?» domandai. Il vecchio respinse questa ipotesi un po' stizzito. «Io sono di Marrakesh», disse con fierezza. «Compro animali per venderli ai macellai». Non provava altro che disprezzo nei confronti degli uomini che erano arrivati lì dopo quel lungo viaggio. E del nostro giovane mandriano blu disse: «Quello non sa niente». Volle sapere però di dove eravamo. E noi, per semplicità, rispondemmo tutti e due: «Di Londra». Egli sorrise e sembrò leggermente irritato. «In guerra mi trovavo in Francia», disse. La sua età indicava chiaramente che si riferiva alla Prima Guerra Mondiale. «Sono stato a contatto con gli inglesi, ma con loro non andavo d'accordo», soggiunse in fretta e abbassando un poco la voce. «Oggi la guerra non è più guerra, non è più l'uomo che conta, la macchina è tutto». Disse ancora qualcosa sulla guerra, che suonò molto rassegnato. «Questa non è più guerra». Ci dichiarammo d'accordo con lui, ed egli allora sembrò perdonarci il nostro essere inglesi. «Gli animali sono già tutti venduti?» domandai ancora. «No, non si riesce a venderli tutti. Quelli che avanzano proseguono per Sattat. Conoscete Sattat? È sulla strada per Casablanca, a 160 chilometri da qui. A Sattat c'è l'ultimo mercato di cammelli ed è là che saranno venduti gli altri». Ringraziammo. Il vecchio ci congedò senza alcuna cerimonia. Smettemmo di andare in giro tra i cammelli. Non ne avevamo più voglia. Quando lasciammo la carovana era quasi buio. L'immagine degli animali non mi abbandonava. Pensavo a loro con timore. E tuttavia, come se mi fossero familiari da lungo tempo. Il ricordo del loro pasto, l'ultimo pasto del condannato, si legava a quella conversazione sulla guerra. In noi rimase vivo il pensiero di visitare il mercato dei cammelli del giovedì successivo. Decidemmo di andarci al mattino presto, nella speranza forse di ritrarre questa volta un'impressione meno tetra della loro esistenza. Ritornammo davanti alla porta di Alchemist. Il numero degli animali che vi trovammo non era molto grande. Si perdevano nella vastità della piazza. Riempirla sarebbe stato difficile. Su un lato c'erano di nuovo gli asini. Non andammo fin lì. Rimanemmo presso i cammelli. Erano in gruppi di 3 o 4 al massimo. Qualche volta un piccolo se ne stava solo accanto alla madre. Da prima ci parvero tutti tranquilli. L'unico rumore veniva dai piccoli gruppi di uomini che mercanteggiavano animatamente. Ma ci sembrò che gli uomini non si fidassero di alcuni animali, ai quali non si avvicinavano troppo, oppure soltanto quando era proprio necessario. Di lì a non molto, notammo un cammello che sembrava difendersi da qualcosa. Ringhiava, sbuffava e girava la testa con violenza da tutte le parti. Un uomo tentò di costringerlo a piegarsi sulle ginocchia, e poiché quello non ubbidiva, lo aiutò a bastonate. Tra i 2 o 3 individui che stavano intorno all'animale si davano da fare con lui. Uno in particolare dava nell'occhio. Era un uomo robusto, tarchiato, con una faccia scura e feroce. Stava piantato lì. Le sue gambe erano come radicate nel suolo. Con energici movimenti delle braccia, passò una corda nel setto nasale dell'animale, dopo averlo forato da parte a parte. Naso e corda si tinsero del rosso del sangue. Il cammello si agitava e gridava, e poco dopo bramì forte. Alla fine, dopo essersi inginocchiato, si alzò di nuovo con un balzo, nel tentativo di svincolarsi, mentre l'uomo tirava la corda sempre più forte. Gli uomini facevano tutto il possibile per domarlo, e mentre erano ancora impegnati in questo, qualcuno si avvicinò a noi e disse in un francese stentato: «Sente l'odore. Sente l'odore del macellaio. È stato venduto per essere macellato. Ora lo portano al mattatoio». «Ma come può sentirne l'odore?» domandò incredulo il mio amico. «Il macellaio è lì. è quello che gli sta davanti. Indicò l'uomo scuro e robusto che ci aveva colpito. Il macellaio viene dal mattatoio e puzza di sangue di cammello. Questo al cammello non piace. Un cammello può essere molto pericoloso. Se ha la rabbia, viene di notte e uccide la gente nel sonno. Come fa a uccidere la gente? Domandai. Quando uno dorme, il cammello arriva, si accovaccia su di lui e lo soffoca nel sonno. Bisogna stare molto attenti. Prima che uno si svegli è già soffocato, sì. Il cammello ha un naso finissimo. Quando la notte dorme accanto al suo padrone, se fiuta i ladri, lo sveglia. La carne è buona. È una carne che va mangiata. Sadon du courage. Il cammello non sta mai volentieri da solo. Da solo non va da nessuna parte. Se uno vuole portare il suo cammello in città, deve trovarne un altro che lo accompagni. Deve farsene prestare uno, altrimenti non porta il suo cammello in città. Quello da solo non ci vuole stare. Io ero in guerra. Ho una ferita. Guardi qui. E si indicò il petto. Il cammello si era un po' calmato e io per la prima volta diedi un'occhiata al mio interlocutore. Il petto appariva incassato e il braccio sinistro era rigido. Quell'uomo mi sembrava di conoscerlo. Era piccolo, magro, serissimo. Mi domandavo dove potevo averlo già visto. Come si uccidono i cammelli? Gli si recide la carotide. Devono perdere tutto il sangue. Altrimenti è proibito mangiarli. A un musulmano non è lecito mangiarli se non sono dissanguati. Io non posso lavorare a causa della mia ferita. È per questo che ogni tanto faccio la guida. Ho parlato con voi giovedì scorso. Si ricorda del cammello rabbioso? Io mi trovavo a Safi quando gli americani sono sbarcati. Abbiamo combattuto un po' contro gli americani. Non molto, in verità. Poi mi hanno preso nell'esercito americano. C'erano molti marocchini con loro. Sono stato con gli americani in Corsica e in Italia. Sono stato dappertutto. I tedeschi sono bravi soldati. Il peggio è stato a Casino. È stato veramente tremendo. È lì che mi hanno ferito. Conosce Casino? Tardai un po' a capire che intendeva Monte Cassino. Nel farmi la descrizione di quegli aspri combattimenti, lui, che era al solito placido e tranquillo, si animò moltissimo. Sembrava che stesse parlando delle brame omicidie di cammelli rabbiosi. Era un uomo onesto, convinto di quel che diceva. Ma aveva visto in mezzo alle bestie un gruppo di americani e si avviò velocissimo verso di loro. Scomparve con la stessa rapidità con cui era apparso, e questo a me andava bene perché non sentivo e non vedevo più il cammello, che aveva smesso di bramire e volevo rivederlo ancora una volta. Lo trovai di lì a poco. Il macellaio lo aveva lasciato in piedi. Il cammello si accovacciò di nuovo. Agitò la testa ancora qualche volta. Il sangue che gli scendeva copioso dalle froge si era sparso tutto intorno. Provai una sorta di gratitudine per i pochi ingannevoli momenti in cui fu lasciato solo. Ma poiché conoscevo il suo destino, non riuscii a guardarlo a lungo e così me la svignai. Il mio amico si era allontanato mentre la guida raccontava. Era certo sulle tracce di qualche inglese. Lo cercai e infine lo trovai dall'altra parte della piazza. Era finito tra gli asini. Forse qui si sentiva meno a disagio. Per il resto del nostro soggiorno nella città russa non parlammo mai più di cammelli.